Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei presupposti più nascosti che ci sono dietro il nostro modo di percepire la realtà e che stanno dietro la formazione del nostro pensiero e linguaggio. Da una parte il nostro modello, abbiamo visto, è un modello separativo. Dall'altra abbiamo le tradizioni non duali che vedevano il mondo conservando la connessione con il tutto. E ho detto all'inizio che questa visione delle tradizioni non duali è andata praticamente perduta, con danni gravissimi che sono sotto gli occhi di tutti. E ho detto nel file precedente di come oggi si stia recuperando in parte questa visione attraverso il movimento, ad esempio, dell'ecologia profonda, che fa sì che io veda la realtà con un rispetto profondo, perché sento la sacralità di tutto ciò che c'è. Nel pensiero indiano, l'originario pensiero indiano insegna a vedere il divino in tutto ciò che c'è. Attenzione, perché il divino degli indiani non è un dio trascendente fuori del mondo che ha creato il mondo, è dentro il mondo, si esprime attraverso tutto. E quindi è naturale, rispettare gli animali, le piante e ogni cosa. Ogni cosa. Poi naturalmente noi abbiamo bisogno di mangiare, di vivere, però lo facciamo con rispetto. Così lo facevano gli indiani nell'India e gli indiani d'America e altre popolazioni che hanno sviluppato questa visione. Proprio a proposito del pensiero indiano, e qui voglio aprire una parentesi su come abbiamo perduto una grande occasione. Durante l'Illuminismo c'erano alcuni autori che erano venuti a conoscenza del pensiero asiatiche, del pensiero indiano in particolare, ed erano rimasti affascinati. E siccome gli illuministi non erano atei, come spesso si pensa, ma erano uomini del loro tempo, quindi erano ancora dentro una visione del sacro, però la visione che gli veniva veicolata dalla Chiesa cattolica e altre possibili chiese, era comunque una visione che la sentivano oppressiva. Ricordiamoci che Kant definisce l'illuminismo come l'uscita dallo stato di minorità. L'uomo esce dallo stato di minorità quando è in grado di usare la sua testa per pensare e non ha più bisogno di essere imbeccato da un'autorità che gli dice cosa deve credere. Ora, Kant diceva questo anche a proposito del pensiero religioso, anzi, soprattutto del pensiero religioso, perché dice: siccome la cosa più importante di tutte, religione vuol dire la connessione, il senso della connessione con tutto, proprio il fondamento di tutto, è affidato a delle autorità che si arrogano il diritto di definire un pensiero valido per tutti. Sulla base di che cosa? Sulla base di scritture, che loro definiscono sacre, definite da Dio e così via. Ma proprio durante l'illuminismo è nato il movimento. È nato, come ovvio, la storiografia scientifica e quindi l'analisi dei documenti e così via. Va bene, dicevo che dall'illuminismo si è perduta una grande occasione, perché gli illuministi, ripeto prima, come ho detto prima, venendo in contatto col pensiero asiatico, il pensiero indiano in particolare, si erano resi conto di avere per le mani un tesoro che avrebbe potuto trasformare la nostra società proprio portando quei contributi che avrebbero consentito di tradurre le istanze etiche nella realtà, perché da noi siamo sempre stati bravissimi a definire quali erano i principi etici, ma lo abbiamo fatto concettualmente, perché il nostro pensiero tende a essere concettuale più che tradursi in operazioni concrete, reali, almeno in campo filosofico. Bene, il pensiero indiano era l'anello mancante, perché ci si poneva di fronte a un bivio: o non crediamo nel sacro, oppure continuiamo a mantenere la soggezione alle autorità religiose. Per gli illuministi questo era incompatibile. Ecco che il pensiero indiano veniva incontro a questo, perché era un pensiero che consentiva di mantenere il sacro, come per esempio uno dei più grandi scienziati che sono mai esistiti, Albert Einstein, proprio quello che fa. Albert Einstein, lui ritiene che il mondo abbia un senso e ha una visione che potremmo dire abbastanza coincidente col pensiero indiano. E quindi che il nostro senso del vivere deriva dal fatto che siamo connessi con tutto l'universo. E che Dio cos'è? è il Dio di Spinoza, Deus ive natura, cioè il Dio che è immanente in ogni cosa dentro la natura, è il principio, cioè il principio che è presente in modo evidente nella vita, che passa da livelli di complessità più bassi a livelli sempre più organizzati, fino al livello dell'uomo, e che è un principio che tende a far sì che gli organismi si auto-organizzino, cioè un principio auto-ordinatore. Ecco. Quindi la visione tradizionale di un Dio creatore che ha definito quali sono i topi, le scimmie, tutte le specie, è una cosa insostenibile. Poi quando è arrivato Darwin ha fatto piazza pulita del creazionismo, ci è voluto del tempo perché la religione lo potesse accogliere. Ma oggi ci troviamo anche in fronte a una situazione di questo tipo, che il pensiero indiano, che sarebbe potuto fondere, cioè poter dare quel contributo, quella linfa vitale al pensiero illuminista, che cosa ne è successo? Appunto, completiamo la storia. Questo pensiero, per esempio, era stato assimilato da Schopenhauer, ma Schopenhauer, come sappiamo, fu eclissato da Hegel. Hegel iniziò da una visione mistica, ma poi prese il suo percorso e praticamente mise fine a questa ricerca sul pensiero indiano in Occidente. Perché? Perché disse: l'India non ha prodotto filosofia. E come mai? E certo, Hegel ragiona così. La filosofia, la conoscenza, nasce nel momento in cui un soggetto separato dalla realtà lo osserva, cioè ben nettamente separato, può osservare la realtà. Se non c'è questa separazione tra soggetto e oggetto, non si dà conoscenza, e quindi se non si dà conoscenza non si può dare filosofia. In questo modo Hegel ha messo la tomba sopra il pensiero indiano e la possibilità di una ibridazione feconda tra il pensiero e la, e quindi tra il pensiero, che poi il pensiero poi sarebbe tradotto in pensiero scientifico occidentale, sempre di più, è quello che poteva essere un tipo di pensiero compatibilissimo col pensiero scientifico occidentale, che invece e quindi ha prodotto la società di oggi, che da una parte mantiene le religioni tradizionali, e da un certo punto di vista sono religioni immature, cioè una visione che non è compatibile con la scienza di oggi, oppure abbiamo una visione laicista, che considera la nostra vita priva di significato, priva così, siamo caduti dal nulla e siamo destinati a finire nella polvere, e questo col grave rischio di nichilismo che alcune persone... Sì, che è quello che sta succedendo ora, perché in effetti questi due filoni si sono sviluppati, cioè non si sono mai integrati, cioè non si sono mai parlati, non si sono mai detti, vabbè... Cioè, cosa c'è di comune? Cioè, proprio si sono, anzi, ognuno si è arroccato dal suo lato dicendo: no, è così. È così. E, cioè, penso che chiunque si senta un po' e dice: da che, cioè, comunque, dove sto? Qualsiasi lato scegli, perdi qualcosa. Esatto, cioè, ti senti che c'è qualcosa che non è proprio questo. Che non va, e se non ne scegli, appunto, poi finisce che diventi nichilista, e quindi comunque ancora peggio. Sì. Cioè, sì, oppure diventi almeno, finora, oppure è scisso, no? Da una parte vai in chiesa, preghi, fai le cose che è, dall'altra è una visione che è del tutto incompatibile, cioè non stanno insieme queste cose qua. Cioè, comunque... Un Dio creatore, in quel modo lì, il peccato originale, cioè sono cose che sono provocano comunque veramente. E infatti oggi, per esempio, il teologo Mancuso è che fa una critica dall'interno, perché lui poi è un teologo laico, ma comunque sempre è cristiano e cattolico, e ritiene che la Chiesa ha da aggiornarsi totalmente su queste cose. Se non lo farà, perderà completamente, e tutti i giovani li perderà. Quindi, in questo, il tema di cui trattiamo col metamodello 2 è un tema radicale, cioè che va alla radice. Sappiamo che le radici cosa sono? Sono ciò che sta sotto il terreno e non si vedono. Noi vediamo soltanto la pianta, l'albero o il cespuglio, e vediamo una pianta che sta in salute o non gode di buona salute o addirittura muore. Ma ciò che è veramente importante non è quello che accade in superficie, è quello che c'è sotto. Se le radici sono sane, la pianta sta bene. Se le radici sono malate, anche se in apparenza adesso sta bene, è presto morirà. Le radici sono ciò che è nascosto, ma che è anche quello che indica la progressione verso il futuro, cioè quello che sta per succedere. Ecco. Ok?